Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt, con cui stasera entriamo in un grande data center, un centro elaborazione dati. Parliamo di strutture che ospitano decine o anche centinaia di server, unità per l'immagazzinamento dei dati e tutto, insomma, il contorno legato alle connessioni con la rete e alla sicurezza dei dati. Ce ne sono ormai di queste strutture un po' dappertutto. Moltissime grandi imprese, ma anche banche e assicurazioni se ne sono dotate, per non parlare di società di telecomunicazioni e dei provider che offrono servizi di connettività o servizi di hosting. Tuttavia, queste strutture sono cresciute disordinatamente, anche perché era difficile prevedere con largo anticipo i bisogni emergenti e sempre nuovi di un settore in così dinamica e rapida evoluzione. Oggi la necessità di una razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse in questo ambito è quindi abbastanza sentita e un'operazione di efficientamento molto avanzata è stata portata a termine da RFI, la rete Ferrovie Italiane. Ne parliamo quindi con l'ingegnere Furio Cinerari, che è appunto responsabile delle problematiche energetiche di RFI. Buonasera Cinerari, benvenuto a Mr. Kilowatt. Buonasera. Dunque, intanto diciamo che questa operazione che voi avete fatto, sofisticata, in cui poi entreremo all'interno dei vostri data center, fa parte, diciamo, di un'operazione più ampia di razionalizzazione energetica. Sì, era un'operazione che riguarda circa 75 punti di elaborazione distribuita che avevamo lungo il territorio italiano e che abbiamo deciso di accentrare in tre grossi data center in questo momento, poi ce ne sarà un quarto a Reggio Calabria. E questo è già un elemento di risparmio energetico, questo passaggio da una forma distribuita a una forma concentrata? Sì, naturalmente, perché nel momento in cui noi abbiamo i punti di elaborazione distribuiti abbiamo la complessità di dover raggiungere posti remoti in caso di default del sistema e per poter poi farci l'assistenza. C'era la necessità di vigilare e quindi di monitorare i locali e poi c'era la parte più importante, che il consumo energetico su 75 punti non era assolutamente economico. Certo, c'erano come minimo delle spese che venivano moltiplicate. Ecco, senta, ecco, ci aiuti un po' a visualizzare, quindi in questi tre attualmente data center che avete, che cosa vede uno che entra? Ma quando entra vede dei grandi armadi, come una grossa scatola, ecco, questo è ciò che vede. Ed è abbastanza diverso da quello che vedeva una volta quando entrava in un data center, in cui vedeva tanti armadi, tutti quanti separati uno dall'altro, mentre adesso vedo un grosso scatolotto che sta all'interno di una stanza. D'accordo. Senta, allora, in una struttura di questo genere, quali sono le principali voci di costo energetico? Ma la principale voce di costo energetico è l'energia elettrica, cioè, certo, che serve, uno, per mettere in moto la macchina IT, cioè la potenza di calcolo, e l'altra grossa dimensione è quella del raffreddamento dei sistemi. I sistemi informatici temono fondamentalmente due elementi: uno, lo shock elettrico dovuto ai salti di tensioni, e l'altro agli shock termici. L'elettronica funziona bene a bassa temperatura. Quindi su questi due filoni immagino vi siate concentrati. Che tipo di interventi avete fatto? Del consumo energetico abbiamo utilizzato microprocessori di nuova generazione, dual core, quadricore, i quali a parità di potenza di calcolo consumano molto meno energia. Però siccome da nostra era un'operazione di consolidamento e non potevamo buttare via i nostri server, certo, che non erano ancora obsoleti, quindi erano operativi, per poter consentire questo abbiamo pensato, per quanto riguardava la parte di raffreddamento, di andare su una nuova tecnologia che ci consentisse di mettere accanto rack ad alta e media densità e, come dire, ottimizzare per entrambi i tipi di rack il tipo di raffrescamento. E questo che cosa ha comportato? Come li avete configurati? Mi pare che ci sia una novità nel modo in cui sono state disposte queste macchine. Appunto, è proprio questo. Cioè, se potessimo fare un paragone, no? Nessuno penserebbe che per tenere i cibi freddi in una casa, in una cucina, è necessario tenere la cucina a 3 gradi, certo, o a 4 gradi. I cibi li mettiamo nel frigorifero. È chiaro. Beh, questo fondamentalmente è lo stesso principio. Quindi, invece che raffreddare tutta la stanza, andiamo a raffreddare esclusivamente la componentistica interessata all'elaborazione dei dati. Quindi avete disposto i server in modo tale che concentrino il calore che producono in una zona molto limitata, ed è su questa zona che voi andate a intervenire. Insomma, moltissime persone in casa hanno un computer, tutti hanno visto che c'è un frontalino e dietro c'è una ventola che butta fuori dell'aria, certo, calda. Noi abbiamo praticamente praticamente raccolto tutte queste aree calde in un corridoio caldo, quindi disponendo i server tutti nello stesso modo, in maniera da avere le schiene tutte quante rivolte all'interno di un unico ambiente, e quindi abbiamo creato una zona dove c'è la raccolta dell'aria calda, mentre sui frontali dei server viene inviata l'aria fredda, che quindi ottimizza il rendimento della macchina, anche perché mentre prima nelle vecchie sale CED, dove c'era un condizionamento generalizzato sull'intero ambiente, per ovvi motivi fisici in alto faceva più caldo, in basso faceva più freddo, i server lungo i rack, che sono alti 2,10 m, 2,20 m, avevano temperature di lavoro diverse. Certo, e quindi anche vite diverse, presumibilmente. Assolutamente sì, assolutamente vite diverse, perché un sistema di questo tipo efficienta non soltanto il rendimento stesso dell'impianto di raffreddamento, ma efficienta la vita della componentistica dei server. Dei server, certo. Senta, qual è l'ordine di grandezza del risparmio energetico di questa soluzione rispetto a una soluzione tradizionale? Da un punto di vista energetico siamo intorno al 35%. Che è una quota significativa, perché credo che il condizionamento si mangi almeno metà dell'energia. Metà. Più della metà. Va bene, grazie allora Furio Cinerari e buona continuazione con il vostro processo di efficientamento. Grazie mille, arrivederci. Bene, qui si chiude Mr. Kilowatt. La puntata di domani sarà dedicata a una nuova strategia di condizionamento che si sta diffondendo soprattutto in Giappone, paese in cui è nato. Il nome di questa tecnologia è Variable Refrigerant Volume. Per stasera è tutto, scriveteci a mrkilowatt@radio24.it. Buona serata.